la regione, il prossimo passo è il comune. Ma intanto un po' di rosso ce l'abbiamo anche noi perché c'è tanto voto di sinistra che è venuto a Caldoro perché la sua storia personale consente anche a un elettore di sinistra di votare e di fidarsi di lui. Io penso che il comune sarà un'occasione per confermare l'onda lunga, quindi sono convinto che anche il comune di Napoli svolterà. Mi pare una conseguenza. Magari alcuni elettori di sinistra avranno anche votato Caldoro, ma parecchi sono rimasti a casa. Il dato dell'astensionismo è comunque molto alto. Ma la libertà è bella perché uno può votare per chi crede e anche non votare. Io tutto questo pianto sull'astensionismo non lo condivido perché ci stiamo, non lo dico come una cosa buona, lo dico come una constatazione, ci stiamo allineando all'Europa dove grosso modo si vota così. Eravamo noi a votare di più, ma noi perdiamo sempre anche le buone abitudini, questo è il guaio nostro, che ci allineiamo all'Europa solo nelle cose negative. Negative. Forse i giovani hanno un po' perso la voglia della politica. Ma forse siamo noi che non riusciamo a fargliela venire, quindi dobbiamo fare un po' di autocritica, la faremo e cercheremo di pensare una politica che non sia soltanto comunicazione della politica, ci vuole più impegno sul territorio. Qual è il segreto della vittoria del PDL con una forbice così ampia? Che Caldoro era il migliore, mi sembra così evidente, non vedo altra spiegazione, nel senso che la cornice politica era valida, ma se uno sbaglia il candidato poi non riprende gli stessi voti. In questo caso abbiamo la fortuna di aver scelto in armonia alla fine il migliore che poteva concorrere a questa carica. Sul piano nazionale, la conquista della Campania, la riconquista, perché abbiamo avuto Certo. Rastrelli per 2 anni e Un pensiero mezzo. penso sia giusto darlo anche al presidente Rastrelli, che è stato un grande presidente della regione Campania, e quindi penso che sia bello nel giorno della vittoria salutarlo e ringraziarlo anche del fatto di essere ancora in perfetta forma e al nostro fianco.